Radio Virus presenta Rosa di Sera, da tavolo transfemminista queer Macao, Carlizia, la vocina che ti vizia, legge favole per diventare di tutti i colori che volete. Le cinque mogli di Barba Brizzolata, di Adela Turin. Jadavindra Coburbun, Maharaja di Bangalore, più conosciuto come Barba Brizzolata, era il monarca detestato e temuto di un vasto paese sulla riva del mare di Oman. Nel suo treno dorato, che scivolava su rotaie d'argento, sdraiato su cuscini di seta e circondato da servitori deferenti e silenziosi, Barba Brizzolata percorreva spesso il suo immenso regno. Le sue terre, circondate da montagne altissime, erano solcate da fiumi e cosparse di magnifiche foreste e da laghi di un azzurro intenso. Il suo palazzo era tutto rosa e pieno di tesori. Un esercito di feroci soldati montava la guardia. Barba Brizzolata era molto vanitoso. I suoi vestiti, intessuti di fili d'oro, erano tagliati e cuciti dal migliore sarto di Londra. Sul suo turbante splendeva il più grande topazio del mondo e le sue babucce di pelle di gazzella ricamate di perle erano fatte a Firenze da un'intera famiglia di marocchinai che lavorava solo per lui. La sua camera da letto, in mezzo al palazzo tutto rosa, era tappezzata con le pelli delle tigri che Barba Brizzolata aveva cacciato nelle giungle del suo regno. Gli elefanti bianchi delle sue scuderie avevano tormalini, zaffiri e crisoberilli incastonati nell'avorio delle loro immense zanne e sulla sua tavola, imbandita d'oro, d'argento e di splendidi cristalli, c'erano tutti i frutti e tutti i vini di Francia. Barba Brizzolata, spaparanzato sulle pelli di tigre e i tappeti di seta, parlava di cacce e gioielli, di vini e di automobili, con altri principi suoi amici. Oppure, nel treno dorato, faceva il giro del suo immenso paese. I poverissimi contadini, che facevano crescere i frutti e le verdure per la sua tavola, estraevano le pietre preziose dalle sue montagne, coltivavano il tè, il pepe, lo zenzero, la seta, la gomma e il cotone che facevano la sua ricchezza, lo guardavano passare intimoriti. Barba Brizzolata, dopo un inverno un po' noioso, chiese a suo padre, Chandula Coburbun, di trovargli una moglie. Chandula rifletté per qualche giorno e poi propose Lisa, la giovane figlia del Maharaja di Maniben. E così Lisa, coperta di gioielli, uscì per la prima volta dal palazzo bianco di suo padre per andare, in groppa a un elefante, al palazzo rosa di Barba Brizzolata. Lisa sapeva appena leggere e scrivere, era dolce e diceva di sì a tutto. Barba Brizzolata tempestava. «Perché dici sempre di sì, eh? Non potresti dire di no ogni tanto?» «Sì, caro», rispondeva Lisa, terrorizzata. Dopo 2 settimane, Barba Brizzolata, spazientito, decise di divorziare. Per non dispiacere al Maharaja di Maniben, suo suocero, fece costruire un palazzo magnifico, tutto verde smeraldo, a 2 giornate di elefante dal suo. lo riempì di tappeti rari e di mobili ricchissimi e vi installò Lisa, circondata da una legione di domestici. Lisa pianse per un po', poi sospirò e si mise ad allevare cani e gatti, a far crescere roseti e a cantare con una bella voce cristallina le canzoncine della sua infanzia. Barba Brizzolata tornò da suo padre. Aveva deciso di tentare di nuovo il matrimonio. «Adesso ho capito», disse Ciandula. «Quello che ci vuole per te, che sei un uomo di grande spirito, è Anna, la poetessa, la figlia del gran visir di Bicanora, che fa le delizie di tutta la corte con i suoi poemi, che recita accompagnandosi con il sitar. Anna è intelligente e spiritosa. Le sue battute e le sue canzoni fanno ridere per mesi tutta la corte del Maharajà di Bicanora». Barba Brizzolata era entusiasta. «Finalmente avrò una compagnia interessante, una conversazione brillante», pensava. E così anche Anna. In groppa un elefante e con uno smeraldo grosso come una saponetta sul diadema, arrivò al Palazzo Rosa. Il giorno dopo, Barba Brizzolata la fece chiamare per fare una passeggiata fra i roseti. Ma Anna non poté andare. Stava componendo una canzone. Barba Brizzolata, furioso, fece una scena terribile, le proibì di comporre ancora una di quelle sue stupidissime canzoni e le confiscò il sitar. Quella sera, dopo cena, Anna, senza sitar, ma battendo il ritmo con gli anelli sulle coppe di cristallo rimaste in tavola, raccontò in alessandrini la sfuriata di Barba Brizzolata e lo imitò così bene che fece ridere da tenersi la pancia invitati, cortigiani e servitori. Barba Brizzolata era verde di rabbia. La sera stessa Anna, il suo sitar e la macchina per scrivere di Madreperla partirono per il Palazzo Smeraldo. Lisa fu felicissima di vedere arrivare Anna. La sua vita solitaria era un po' triste, malgrado gatti e cani, rose e uccelli. Le imitazioni di Barba Brizzolata che faceva Anna la divertirono molto e nel Palazzo Verde la vita diventò piacevolissima fra risate e canzoni. Barba Brizzolata intanto era tornato da Ciandula. «Sono molto sfortunato», gli disse. «La mia prima moglie era dolce, ma noiosa da morire. La seconda era intelligente, ma crudele e sarcastica. Aiutami, voglio tentare di nuovo». Ciandula, questa volta corto di idee, gli propose Zelda, la figlia del principe di Baroda, immensamente ricco. «Il regno di suo padre», disse Ciandula, «è portentoso. I loro palazzi sono belli quasi quanto i nostri, le loro terre ancora più vaste e i loro smeraldi e i loro diamanti ancora più numerosi dei nostri». Zelda, l'ereditiera di Baroda, arrivò al Palazzo Rosa a bordo di un aeroplanino, seguita dalla sua segretaria canadese e dal suo parrucchiere parigino, dai suoi cani e dalle sue innumerevoli valigie. Nel palazzo quella sera ci fu una grande festa, alla quale Zelda arrivò in jeans e con 3 ore di ritardo. Barba Brizzolata, impressionato da tanta disinvoltura, si disse «Capperi!». L'indomani, mentre beveva il primo tè della mattina, nella camera da letto dalle pelli di tigre, Barba Brizzolata vide dalla finestra alzarsi nel cielo l'aeroplano. Sorpreso si informò e gli risposero che Zelda era partita per il festival di Salisburgo. La sua nuova moglie amava la musica. Un mese dopo, Zelda tornò da Salisburgo, ma per ripartire per Parigi l'indomani. E quando, 18 giorni dopo, Zelda tornò da Parigi, Barba Brizzolata aveva preso la sua decisione. Divorzio anche da questa, per dirci. Prima di partire per Capri, Zelda passò dal Palazzo Verde per conoscere Lisa e Anna e le trovò che cantavano. Zelda si mise all'armonio e passarono un eccellente pomeriggio facendo musica, bevendo tè e chiacchierando. Zelda ripartì, promettendo di tornare al Palazzo Verde con strumenti, partiture, dischi e registratori. Barba Brizzolata era depresso. Ciandola fu incaricato, una volta in più, di cercare una moglie a suo figlio. «Tenta di fare meglio, incomincio a essere stanco», gli disse Barba Brizzolata di malumore. Ciandola ci pensò per un po' e diede il suo parere. «Quello che ci vuole per te, che sei un uomo di carattere e di grande personalità, è una ragazza semplice, che non abbia grilli per la testa. Una buona massaia, dolce e discreta. Florinda, per esempio, la figlia del palafreniere. Che ne dici?» Barba Brizzolata, sconcertato, acconsentì. E Florinda, come Lisa e Anna, arrivò al palazzo in groppa a un elefante. Ma questa volta non ci furono feste né celebrazioni. Tutto sommato Florinda era la quarta moglie e poi la sua famiglia non aveva relazioni altolocate. Questa volta Barba Brizzolata era soddisfatto. Florinda era premurosa, faceva di tutto per piacergli. Dopo qualche mese, una mattina gli disse: «Caro, mi sembra che, ignorante come sono, io non sia degna di essere la moglie di un uomo intelligente come te. Vorrei istruirmi per non farti sfigurare». Vanitoso com'era, Barba Brizzolata acconsentì. Qualche settimana dopo arrivarono dai quattro angoli del mondo professori e libri, una spinetta veneziana, un armonio e un violoncello austriaco. Florinda diventò una studentessa insaziabile e superdotata e in poco tempo imparò il francese e l'inglese, la matematica e la fisica, la storia, la geografia e la musica. Ma Barba Brizzolata si accorse che sua moglie era cambiata. Florinda passava le giornate chiusa a studiare o a praticare il violoncello e, quando lui tornava dalla caccia alla tigre, non la trovava più ad aspettarlo, sorridente, con le babbucce fiorentine in mano e un whisky seltz su un vassoio d'oro. Florinda era diventata distratta. Non lo ascoltava più e le succedeva persino di ribattere quando Barba Brizzolata, vanitoso com'era, parlava di quello che non sapeva o di correggerlo quando piazzava la sua frasetta in francese scorretto. Seccato di tanta scienza, umiliato dal non poter competere, geloso, Barba Brizzolata decise di divorziare anche questa volta. E così Florinda, sprofondata nella lettura, partì una mattina per il Palazzo Verde Smeraldo. E partirono anche i suoi libri e il suo violoncello. Lisa, Anna e Zelda, che di ritorno da Capri si era installata nel Palazzo Verde Smeraldo, l'accolsero con entusiasmo. Florinda era simpatica e affettuosa ed era una violoncellista di primo ordine. Barba brizzolata annunciò che si era ammalato dal dispiacere. In realtà non aveva quasi niente, un forte raffreddore, e chiamò attorno a sé i più grandi medici di tutta l'India. Uno fra gli altri, un vecchio pretenzioso e ottuso, che passava per essere il migliore di tutti, gli consigliò di sposarsi. «Ma se sono anni che non faccio altro!» gli rispose Barba brizzolata amareggiato. Le ho già provate tutte, sempliciotte, sofisticate, ricche e povere. Niente da fare. Sono tutte crudeli, egoiste, insopportabili. Provate, disse il gran dottore dall'alto della sua ignoranza, a sposare una ragazza giovanissima, tanto giovane che possiate educarla come volete. Sarete per lei come un padre e lei consolerà i vostri vecchi giorni. Proverò. Borbottò Barba Brizzolata senza farsi troppe illusioni. E fu così che Liliana, una principessa diciottenne, bellissima, arrivò al Palazzo Rosa. Liliana sapeva ballare, suonare l'oboe, cantare e recitare poesie. Dapprima fu abbastanza intimidita da Barba Brizzolata, così imponente con il suo topazio immenso. Ma la mattina dopo la grande festa del matrimonio, Liliana trovò Barba Brizzolata in pigiama, panciuto, pallido, con le borse giallastre sotto gli occhi, che, preoccupato, si osservava la lingua in uno specchio. Liliana, fresca e rosa, lo guardò un momento incuriosita e poi si mise a ridere. La sua bella risata cristallina, che sembrava quella di una bimba, si sentì in tutto il palazzo. Barba Brizzolata cacciò un urlo terribile. Portatela via! Sta ridendo di me! Due giorni dopo, Liliana e il suo oboe entravano a far parte della piccola orchestra brillante e affiatata del Palazzo Verde Smeraldo. Quando arrivò la bella stagione, Anna propose di fare un giro del paese, presentando un piccolo spettacolo nelle piazze dei villaggi. Lo spettacolo era un'opera buffa in due atti, con arie, recitativi, balletti e assoli strumentali. Si intitolava Barba Fasulla e le sue sette mogli e raccontava in modo burlesco le avventure matrimoniali del Maharaja Jadavindra Coburbun di Bangalore, detto Barba Brizzolata. Anna, con una piccola pancia posticcia e una falsa barba blu, imitava il Maharaja in modo così spassoso che nelle piazze dei paesini i contadini e le contadine si tenevano le costole. L'opera ebbe un immenso successo. Per 2 anni la piccola compagnia girò per valli e colline in due roulotte Mercedes scelte a stoccarda da Zelda, facendo ridere fino alle lacrime i contadini dei 1.000 villaggi del regno di Barba Brizzolata. I sudditi di Barba Brizzolata, che fino a quel momento lo odiavano ma lo rispettavano, incominciarono a ridere in faccia ai suoi emissari quando questi passavano per esigere le pesanti tasse che facevano la ricchezza della sua famiglia. Incredulo, Barba Brizzolata partì dal suo treno dorato per rendersi conto personalmente della situazione e ristabilire l'ordine. Ma i contadini lo trovavano così buffo, dopo l'imitazione che ne aveva fatto Anna, che ridevano senza ritegno e non pagavano neanche una rupia. Barba Brizzolata è ormai rovinato. Venduti topazi e ametisti, tappeti ed elefanti, Palazzo Rosa e Palazzo Verde Smeraldo, vive ora in una villetta, furioso e solitario. Lisa, Anna, Zelda, Florinda e Liliana, dopo il loro giro in Oriente, si sono esibite nei più grandi teatri di tutto il mondo. Il loro repertorio è vastissimo, ma Barba Fasulla rimane uno dei pezzi preferiti dal pubblico. Avete ascoltato Rosa di Sera, favole per diventare di tutti i colori che volete. Per contattarci scrivete a rosadisera@autoproduzioni.net. Rosa di Sera su Radio Virus, il lunedì e il giovedì alle 21:00.